già profitto che a vuoto, se in fondo qui sull'ordo ci vuole poco ad esplodere come un'atomica. Profitto di costi, profitto che a vuoto, in fondo qui sull'ordo ci vuole poco, ci vuole poco. Guardo la mia vita ed incomincio il viaggio. Ho l'ingaggio perché ho più coraggio in questo villaggio. Tocca a me avanzare senza zaino, armi e munizioni. Solo con la carta penna, i ricordi ed illusioni. Io asciugavo lacrime sul viso di mia madre. E chissà su che cazzo di strada è finito mio padre. Chiedevo, prendevo la chiave, chiudevo e piangevo, perché sapevo che intanto non ce l'avevo. Una vita normale, composta da un padre e una madre che ti stanno ad ascoltare. Invece il solito psicologo, stai tranquillo Ale, poi ti va a sputtanare con l'assistenza sociale. Figlio di troia, non stavo già male. Troppi, troppi posti, troppi tocchi a vuoto, secondo qui sull'orlo ci vuole poco, adesso del come un'atomica. Troppi, troppi posti, troppi tocchi a vuoto, secondo qui sull'orlo ci vuole poco, ci vuole poco. E come Hova io mi sforzo a scrostarmi lo sporco di dosso sul risvolto col dorso. Posso, ma nel posto ormai non passa giorno che ti scordi addosso un gioco che ne posso. Se nel mio ok sono posto solo pearly pop, zero cancano foxtrot, yeah, zero pietà o rimorso. Occhio frillocco per chi rosica al proposito e costringerlo in rotta. E di pinocchi qui si sfondano come tronchi senza polpa. Tra la folla, vota per la fotta, con la brulla in bocca ed un'occhiata che spolvera la ruggine dalla tua faccia di tolla. Telefonata, pronto papi, la cornetta è posata. Guardo mia madre allibita che non sa più cosa dire. Poso il telefono ed incomincio a capire che tanto quella persona non la volevo sentire. Che non ha senso vivere per regredire. Bisogna tirare avanti, alzare la testa. E pensa che c'è gente che sta peggio, è l'unica consolazione che resta. Per questa bestia cresciuta in cattività fin dalla nascita, troppi troppi posti durante la crescita. Ci si esercita ma è lecita che la vita è patetica davanti alla difficoltà del vivere da solo in città. Troppi posti, troppi posti a vuoto, secondo qui sull'orlo ci vuole poco, ad esplodere come un'atomica. Troppi troppi posti, troppi posti a vuoto, secondo qui sull'orlo ci vuole poco, ci vuole poco. Me ne fotto, affronto gli affronti con gioiosa foga, in ogni dove ce la si gesticoli al fronte. Non c'è posa in suo reticolo di portici e ponti, pericoloso quanto i gringo sta di Juana la notte. Rigorosamente libero a partire dal momento delle doglie, un perenne caso clinico finché non ci avrò voglia di stendermi supino con un cartellino al mignolo in fila all'obitorio. A voi prima accomodo, come no?